è stata la sfida più grande quando avete messo in piedi questo progetto? La sfida più grande, secondo me, è stato riuscire a trovare un meccanismo per cui la gente si divertisse a partecipare e nello stesso tempo producesse valore per i luoghi che racconta, perché poi il problema fondamentale è questo, cioè noi vorremmo creare una squadra di persone che non sono semplicemente dei viaggiatori, ma sono anche degli autori, dei cantastorie, delle persone che riescono a raccontarci le emozioni che incontrano nei luoghi e raccontarle in modo tale da ispirare le altre persone che viaggiano su internet e quindi vogliono informarsi, vogliono trovare luoghi interessanti da visitare. Quindi la sfida è stata progettare un sistema che rendesse la vita facile a chi vuole raccontare le proprie emozioni e che allo stesso tempo riuscisse a produrre dei contenuti di valore, che è quello che pensiamo di essere riusciti a fare nel nostro piccolo, nel breve tempo da cui siamo partiti, insomma. Però mi sembra di capire che dal sito si possano intravedere dei livelli diversi, cioè un livello dell'utente che sfrutta la propria pagina per raccontare le proprie esperienze di viaggio, ma anche un livello dove le stesse attività o comunque l'ente, la regione, in base a proposte turistiche, può sfruttare al meglio questa pubblicità per poter poi appunto avvicinare più utenti possibile. Quello che proponiamo fondamentalmente a chi si occupa di promozione e valorizzazione del territorio, quindi che può essere appunto un ente, ma può essere anche un gruppo di professionisti del turismo, quindi una serie di albergatori, di negozianti, perché no, è di organizzare appunto sfide per coinvolgere utenti nel raccontare, seppur in maniera breve, le proprie esperienze di viaggio nei posti ovviamente di interesse. Volete lasciare qualche contatto in modo da avere non solo il vostro nome e cognome, ma anche ovviamente il sito, che ricorda www.poistory.it? Io sono Alessandro e, come hai già detto, il sito è poistory.it. La mia mail è ale@poistory.it, molto semplice. Io sono Roberto e rob@poistory.it, scriveteci, veniteci a trovare e scoprite le sfide che abbiamo in mente di fare da qui ai prossimi 2 mesi. Vi anticipiamo che ci saranno 2 sfide legate all'evento di social trekking che avviene a Bologna il 21 febbraio. Perfetto, vi ringrazio, siete stati gentilissimi.